Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Bentrovati su Mix 24 estate, un viaggio tra musica e storia negli anni 60 in compagnia di Franco Schipani e Alessandra Fiori. Oggi siamo al 1968, alla grande contestazione. Allora Franco, da dove partiamo per raccontare quest'anno di svolta? Iniziamo con un colore, è il colore del 1968, è decisamente blu. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Fischio torna giù, un angelo blu, e lei lo sa, è tutto ciò che io ho, è in gabbia la terrore. Azzurro Adriano Celentano, blu, l'amore blu, il Renegades e un angelo blu, Equipe 84. Buongiorno Franco Schipani. Buongiorno Alessandra. E allora siamo arrivati al 1968. Finalmente Franco, è un anno cruciale e protagonisti assoluti sono i giovani, che vadano in giacca e cravatta o in jeans, capelloni o no, di sinistra, di destra. Loro sono i protagonisti del 1968 e dell'anno del cambiamento. Si moltiplicano le manifestazioni studentesche che assumono spesso i tratti della guerriglia. È contestazione, una grande ondata di protesta che investe tutto il mondo e anche il nostro paese. Gli studenti non smettono di occupare le università, dall'Ateneo di Trento alla Cattolica di Milano, alla Facoltà di Lettere di Torino. Sotto accusa ci sono anche i metodi didattici e si rivendica un diverso rapporto con i professori. Ma sotto accusa è anche il cosiddetto sistema. Un sistema di valori in cui i giovani non si riconoscono più. Un sistema che i sessantottini vogliono distruggere. Anch'io esattamente non so che cosa voglio, il mondo che voglio. Infatti io desidero un'enorme distruzione, la fine completa di tutto quanto. E poi quello che si rifà sarà senz'altro più piacevole, più dolce, più delicato. Ma è così difficile, intanto dobbiamo distruggere. Intanto dobbiamo distruggere per qualcosa di più delicato, Franco. Aveva le idee chiare? Eh? Molto chiare, non so se poi è stato veramente più delicato quello che è venuto dopo. Comunque sarà Roma il primo marzo a vivere uno dei momenti di massima tensione di questo 1968. La situazione nelle università rimane tesa. Gli studenti si sono radunati stamane in Piazza di Spagna, protestavano contro il rettore e da qui hanno poi formato un corteo. In un secondo tempo, circa 2.000 studenti hanno raggiunto la facoltà di architettura, che da ieri sera era presidiata dalla polizia. Qui gruppi di studenti hanno tentato, con lancio di sassi, di superare lo sbarramento della polizia per entrare nella facoltà. Nel corso di incidenti e tafferugli sono rimasti feriti studenti ed agenti. È la battaglia di Valle Giulia, il celebre e ormai emblematico scontro avvenuto il 1 marzo del 1968 fra studenti e forze dell'ordine. Scopo dei manifestanti era quello di riconquistare la facoltà di architettura di Roma, presidiata dalla polizia. Lo scontro è sanguinosissimo e il bilancio, Franco, parla da solo. Sono 148 feriti fra i poliziotti, 478 tra gli studenti. Se molti intellettuali solidarizzarono con i manifestanti, facendo proprie le ragioni degli studenti, ci sono anche delle pesanti eccezioni. E l'indomani di Valle Giulia, Pierpaolo Pasolini scrive una celebre poesia. Vi odio, come odio i vostri papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo borghesi. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte con i poliziotti Io simpatizzavo con i poliziotti, perché i poliziotti sono i figli dei poveri. Un giudizio pesantissimo quello di Pasolini. È una parte questa della lettera Il PC ai giovani, un atto d'accusa contro gli studenti borghesi del movimento, appunto, in difesa invece dei poliziotti proletari. Una presa di posizione che provoca un vero e proprio terremoto. E la contestazione giovanile non può non arrivare anche in televisione. E la satira se ne occupa. Annaggia sti giovani, oh! Ah, un altro che ce l'ha coi giovani. È giusto lasciare che i giovani esprimano le loro idee, è giustissimo. È sbagliato lasciargliele esprimere per cose poco importanti. Errore! Perché devono parlare? A me non mi hanno fatto mai parlare. Quando ero giovane mi dicevo, sta zitto che sei giovane. Mo mi dicono, sta zitto che sei vecchia. Oh, e io quando parlo? Parlerai il giorno che avrai qualcosa da dire. Non è male, parlerai il giorno che avrai qualcosa da dire. Sono Walter Chiari e Paolo Panelli a Canzonissima 68. Ma adesso, Franco, diamo uno sguardo oltre Alpe. E diamolo questo sguardo. Lo diamo questo sguardo, sì, perché sì. Il 3 maggio del 1968 a Parigi la polizia si scontra con gli studenti universitari della Sorbona che protestano per la chiusura della facoltà di scienze di Nanterre. I poliziotti fermano 500 universitari. La battaglia del maggio francese proseguirà per tutto quanto il mese e il bilancio finale degli scontri sarà di 400 feriti e 180 auto distrutte. La protesta degli studenti sarà appoggiata con una serie di scioperi dai lavoratori e costringerà il presidente francese Charles de Gaulle a indire nuove elezioni. Uno dei padri intellettuali di quel maggio francese è Daniel Combendit. Ascoltiamo come spiega il maggio del 68 ai giovani delle future generazioni, intervistato da Giovanni Minoli. Senta, ma se dovesse spiegare a un giovane di 18 anni che cosa è stato il maggio del 68, in due parole cosa direbbe? In due parole. Una volontà, un bisogno di libertà e di autonomia. Ecco, ma quali sono tre cose, o due o tre cose, che direbbe sempre a questo diciottenne per dimostrargli che oggi, senza il 68, lui non le avrebbe avute queste cose? La libertà sessuale, la libertà, l'autonomia nel lavoro e poi l'autonomia e la libertà nella cultura. Molte libertà, Franco. Hai visto i francesi però al primo posto, la libertà sessuale. Sessuale. Comunque, in Italia, nonostante le turbolenze sociali, cara Alessandra, si cantava questo. Tu che m'hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Una chitarra, 100 illusioni e tu negli occhi miei. Erano i giorni che al nostro amor bastava appena un po' di sole. Oggi che la vita mi può dare tanto, mi sto accorgendo che non ho niente, tu non sei più con me. Amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo che desideri da me. Tu che mi hai preso il cuore, Gianni Morandi, una chitarra 100, illusione di Minoritano, e vorrei che fosse amore della grandissima Mina. Franco, scusami, il paese da una parte è in rivoluzione completa e dall'altra parte invece si canta ancora il cuore e amore, ma come me lo spieghi? Ma perché noi in fondo siamo dei romanticoni, però... Però, Enzo Iannacci non la pensava così. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? X24 estate. Vengo anch'io, no tu no, Franco. Ma perché? Ma perché no? Ok. Bentornati su Mix 24 Estate, Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori, qui come c'è Franco, Franchi Schipani. Ciao, ciao a tutti. Allora, abbiamo detto che questa Italia, scanzonata musicalmente nel 1968, dall'altra parte ha la contestazione giovanile. I giovani, l'abbiamo sentito, vogliono ripartire da zero, distruggendo tutto. Ma questo 68 è anche un anno di costruzione. L'Italia assume la presidenza del Consiglio delle Comunità Europee e il 1 luglio del 68 entra in vigore l'unione doganale, che sancisce la libera circolazione delle merci tra i sei paesi del mercato comune: Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo. Vengono aboliti gli ultimi dazi doganali sul commercio intracomunitario con 18 mesi di anticipo rispetto a quanto previsto dal Trattato di Roma. E questo è un passo molto importante verso il mercato comune europeo. Ecco Alessandro, invece per ironia, una lotta cruenta si consuma invece proprio dietro le quinte della musica leggera. Quindi i musicisti italiani scendono in piazza? No, scendono in piazza, vanno in tribunale. Peccato, perché l'amicizia che legava Don Bachi a Celentano era di lunga data, aveva prodotto grandi successi, allegria, gioia, insomma era qualcosa che ci faceva piacere vedere. E poi finisce in tribunale perché poi quando si fanno i conti, finisce. Si fanno i conti non tornano, però veramente peccato. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, mentre l'altro se ne andrà. Tu piangi e non vuoi dirmi la verità, cosa c'è che non va? Però io so la mavia e se ne andò, ma io t'aiuterò ed allegro ti rivedrò. Amico, canta ancora insieme a me. Canzone, Adriano Celentano con Don Bachi, e poi Don Bachi che gli diceva Amico canta ancora con me. Ma già non cantavano ma, più insieme. Ma perché? Cioè, mi è sembrato di capire, da come lo dicevi, che era una questione di vil denaro, oppure forse c'era qualcosa un po' di... No, non era una cosa romantica, no. Tipo che si sono rubate le fidanzate, no. Quelle cose. No, perché lui aveva scritto delle canzoni, aveva un contratto con la casa discografica di Celentano, è successa un po' di maretta con i conti, le edizioni, i diritti SIAE, quelle cose lì, insomma, cose che fra amici poi alla fine... fanno rimanere un po' la bocca amara, anche perché il re degli ignoranti intanto cantava questo con lui. Solo. Ancora una volta ho rimasto solo, ma hai lasciato pure tu. Non so perché, nessuna ragione. ragazza poi rimane con me. Stavolta parlerò da solo, mi dirò ragazzo così non va. Ancora una volta ho rimasto solo. Stavo scrivendo questa canzone, non gli entrava la parola ancora una volta sono rimasto solo, era troppo lunghi. Cioè, come facciamo? Tagliamola. Ancora una volta ho rimasto non solo. Non è male, ho rimasto solo. Ma guarda, è stata. Guarda che è la, solissimo. Ai bambini è piaceva. È superlativo in realtà. Ai bambini piaceva ho tantissimo questa canzone. Soprattutto che poi quando andavano a scuola e facevano i compiti, io ho rimasto. Come ho rimasto? Sono rimasto. No, l'ho sentita alla radio. Quindi radio. Quindi vale. Sì, comunque ancora più bello sarebbe mi hai rimasto solo. Mi hai rimasto solo, meglio. Bellissimo. Comunque Celentano e Don Bachi e gli altri del clan in quel momento hanno fatto anche una cosa simpatica in un film di Totò dove erano travestiti da monaci e cantavano, beh, la carità. Se consegno queste scarpe si mangia, altrimenti si fa un altro buco alla cinchia e stringiamo la pancia, va bene? Ecco. Papà, se consegni le scarpe ce l'ho fatta in ballo con i fegatini di rondine. Cosa? Io voglio il tacchino d'artufato. Il lucio rosso. Cosa? La silenzio! La zappaiola. Basta! Chi è che vi ha insegnato a dire queste porcherie? La morga di Monza. La morga di Monza, eh? Quella poco di buono. Ma guarda se sono cose da dire delle anime innocenti, io non lo so. Fateci, fateci, fate un poco di carità. Due fraticelli soli siamo in giro per il mondo. Chiediamo solo un po' di carità per noi. E sera prima di dormir pregheremo per portare a voi la felicità. E questo è La Carità, Celentano con Don Bachi in un film di Totò di qualche anno prima. Franco, ma torniamo ai patti drammatici del 1968 in Italia, perché le scosse sono moltissime e non sono solo quelle rivoluzionarie. Un violentissimo terremoto nel 68 appunto colpisce la Sicilia. Buongiorno, durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi. Qualcuno? C'è qualcuno? C'è nessuno? La notte tra il 14 e il 15 gennaio un violento sisma colpisce la Sicilia. L'epicentro è nella Valle del Belice. Il bilancio è tragico. 400 morti, un migliaio di feriti e circa 98.000 persone rimaste senza casa. Da Gibellina, uno dei paesi più colpiti dal terremoto, Sergio Zavoli realizza, nei giorni subito dopo, un servizio poetico e molto commovente. Gibellina, sulla carta geografica non c'era. Adesso non c'è neppure su quel clivio giallo d'estate, bruno, d'inverno, che radurava intorno a tre chiese, tre piazze, mille case, mille porte. Cercarla sulla carta geografica, adesso che non si riconoscono nemmeno gli usci di casa, ha meno senso ancora. Eppure questo è stato un paese con la sua gente, con le sue storie. I terremoti coprono tante cose e ne scoprono tante altre. Mettono a nudo un'infinità di abitudini, di affetti, appartenuti gelosamente. Svelano o lasciano trasparire ciò che era un uomo da vivo e nascondono i morti nel fondo delle macerie, come se questa miseria contadina, bracciantile, operaia, questa secolare povertà quotidiana, custodita nelle case di tufo, non fosse anch'essa da seppellire insieme con le sue vittime. Su questa tragedia vasta e misteriosa, silenziosa e urlante, che oggi ha radici nel fondo della terra, possiamo misurare tutti i sentimenti, dalla pietà al rimorso. Era gente del nostro paese e non l'abbiamo abbastanza conosciuta. Che non si muore per amore. È una gran bella verità, perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Come io vivrò 24 estate. Che non si muore per amore, è una gran bella verità. Franco, siamo arrivati a Battisti finalmente. Bentornati su Mix 24 Estate, musica e storia. Siamo nel 1968, il Franco in questione è Franco Schipani. Io sono Alessandra Fiori. Franco, Battisti. Ci siamo finalmente arrivati. Allora, Celentano e Don Bacchi si lasciano, però nasce una coppia storica che farà la storia della canzone italiana, Battisti e Mogol. Balla linda, balla come sai. Lucio Battisti, musiche, Mogol, parole, e che parole per Balla Linda e Prigioniero del Mondo. E tutto il resto è storia. Tutto il resto è storia. Lo posso dire? Assolutamente, Alessandra. Allora, Alessandra, Mogol era già un paroliere affermato, Battisti invece diventa cantante solo nel 1968, vuol dire che ci crede e dice va bene, faccio il cantante, anche se lui si vergognava della sua voce. Lo ha detto più di una volta, ha detto ma mi sento un po' insicuro. Infatti non gli piaceva esibirsi dal vivo con il pubblico davanti, lo faceva malvolentieri. Ma lo sai che cantava volta... anche in una località del litorale laziale, vicino ad Anzio, e i miei genitori si sono innamorati sentendo questo giovane ragazzo che cantava. Ah, quindi se ora sei davanti a me lo dobbiamo a Lucio Battisti. Grazie, mi sta Lucio. Dicendo. Comunque Mogol e Battisti erano già affermati perché hanno scritto delle bellissime canzoni per altri. C'è un prato verde che mai nessuno ha mai calpestato, nessuno se tu vorrai conoscerlo. Cammina piano perché nel mio silenzio nel cuore e nell'anima, Equipo 84, il vento, i Dick Dick. Allora, Alessandra, che venti ispiravano nel 1968 in Italia? Rivoluzionari, Franco. Rivoluzionari anche nel campo dei diritti delle donne, grazie a una sentenza del 19 dicembre della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha stabilito che l'adulterio non è più reato, anche se la colpa rimane. Che significato ha questa sentenza che mette alla pari uomini e donne di fronte alle loro responsabilità morali e familiari? Chiediamolo a un esperto, l'onorevole Loris Fortuna. Ha un grande significato perché ho l'impressione che sia la prima sentenza che apre veramente la strada alla emancipazione della donna nel nostro paese. Abbiamo delle leggi piuttosto arretrate in vari settori, anche in questo settore, sul piano dell'adulterio, della relazione adulterina. La donna aveva una posizione di assoluta non parità con l'uomo. E questa sentenza apre l'applicazione della Costituzione e questa strada per l'emancipazione. Ecco, l'adulterio femminile, l'abbiamo sentito, non è più considerato reato. Intanto la Chiesa, con l'ultima enciclica di Papa Paolo VI, Umane Vite, prende una netta posizione dichiarando illeciti i metodi contraccettivi artificiali e l'aborto, e nell'enciclica si legge: dobbiamo ancora una volta dichiarare che è assolutamente da escludere come via lecita per la regolazione delle nascite l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto, anche se procurato per ragioni terapeutiche. Ecco Franco, Questa era la posizione della Chiesa nel 68 e nel 68, a questo punto con un triplo salto dobbiamo mortale, arrivare al solito festival di Sanremo. Esatto, Franco, sei contento? Guarda, ti faccio ascoltare la canzone che ha vinto e poi quella che in varie versioni ha venduto tantissimo anche fuori dall'Italia. La festa appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. Canzone per te, Sergio Endrigo, è Quando mi innamoro, Anna Identici. Ma è sempre un festival autarchico? No, assolutamente, anzi nel 1968, non si sa perché, non si sa da dove, arrivano al festival due leggende viventi, una del jazz e l'altra del rhythm and blues. Sera sono qui, mi vendi con Terry perché sei con me. Da quando ha detto che non vuoi più bene a me, da quando ha detto che Louis Armstrong con Mi va di cantare e Wilson Pickett con Deborah. Belli arrivi nel 68 a Sanremo. Sì, arrivavano ed erano anche felici di cantare con i nostri. Infatti c'era la doppia versione dell'accoppiamento tra gli artisti, tra il gemellaggio. Sì, invece gemellaggio. Che cosa facevano i nostri nel 68? Ma i nostri nel 68 continuavano a ignorare Sanremo e andavano in giro per l'Italia con il Cantagiro. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. Non ti scordar di me. Sempre più nel sogno mio rimani tu. Ho difeso il mio amore. La bambola, Patti Pravo, non ti scordar di me, Sergio Leonardi, ho difeso il mio amore, i Nomadi, insomma, brani estivi, mia cara Alessandra. E proprio d'estate, Franco, nella notte tra il 20 e il 21 agosto del 1968, questa notizia fa il giro del mondo. La Cecoslovacchia è stata invasa. Questo è il drammatico, gravissimo annuncio che è avvenuto in nottata e che ha colto il mondo di sorpresa. Le truppe del patto di Varsavia, cioè i reparti militari sovietici, bulgari, ungheresi, polacchi e tedesco orientali, assenti rumeni e jugoslavi, sono penetrati stanotte, un'ora prima di mezzanotte, attraverso le frontiere cecoslovacche impadronendosi delle città principali e occupando praticamente l'intero territorio della Repubblica Cecoslovacca. I carri armati hanno stretto un cerchio intorno alla capitale. Vi presentiamo ora un documento sonoro. Questi sono i rumori dell'estate praghese 1968. A raccogliere i rumori dell'invasione è Demetrio Volcic, storico inviato della RAI nel paese dell'Est. I carri armati sovietici entrano nella capitale cecoslovacca e mettono fine al sogno della primavera di Praga, un periodo di liberalizzazione e di riforme iniziato il 5 gennaio del 68 e conclusosi, appunto, con questa drammatica invasione. E nel 1968 i miei amatissimi Rolling Stones finalmente riescono a trovare... Non l'hai detto come lo dici di solito, Rolling Stones, l'hai detto... The Rolling Stones, ti piace? Sei tenuto, cioè, ti sei tenuto, sì. Trovano il loro sound, questo è il capostipite di tutti i loro poi brani famosi, ecco, il sound dei Rolling Stones. Io ero a New York, incontro Keith Richards in una situazione di festa, lui era abbastanza allegrotto, quindi ho detto, ma io quasi quasi glielo chiedo. E tu senti, ma qual è il segreto del sound dei Rolling Stones? E lui mi guardò e mi disse, vedi, fare le canzoni dei Rolling Stones è molto facile, sono quattro accordi, dice, la puoi rifare tranquillamente, però quando la rifanno, chiunque sia, fanno un errore madornale, accordano la chitarra, giustamente. E invece no, perché soltanto io so quando sono scordato, perché sono scordato da 40 anni. E se ne andò. E questo è il segreto, il sound dei Rolling Stones. I Beatles sono ancora insieme, naturalmente, e scrivono questo capolavoro. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it start to make it better. Hey Jude. Hey Jude, prendi una canzone triste e rendila migliore. Wow, che meraviglia. Meraviglia. Dall'Inghilterra ti porto in America, perché quest'anno succedono moltissime cose. Il presidente Johnson finalmente ha recepito il messaggio e smette di bombardare il Vietnam. Era pure ora. Faccia lui. Ah. È al culmine della sua impopolarità e annuncia infatti di non ricandidarsi, mentre al contrario, al culmine dell'ascesa politica, c'è Bob Kennedy, fratello del presidente ucciso a Dallas, che il 18 marzo del 68 pronuncia il suo discorso più famoso. Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte. E non fa che aumentare. Ecco, e tre mesi dopo questo celebre discorso sul PIL, il 6 giugno del 68, Bob Kennedy viene assassinato a Los Angeles. 8 colpi, soltanto 2 pare lo hanno colpito, ma Kennedy è ferito in maniera gravissima, questo è chiaro fin dal primo momento, anche se in questo momento i testimoni, quelli che gli erano vicini, diranno che era ancora cosciente. Qui, Nuova York, mi parla Ruggero Orlando. Le condizioni di Bobby Kennedy, tutti lo chiamano ora Bobby con affetto, l'affetto che ispirano i grandi drammi, e le condizioni degli Stati Uniti si possono riassumere in una parola, parola che fa da titolo a tutta pagina nel quotidiano newyorkese della sera. La parola è critical, facile. E nel 1968 la politica e le proteste entrano fortemente anche nello sport, perché durante i Giochi Olimpici di Città del Messico, sulle note dell'inno americano, Tommy Smith e John Carlos, i due sprinter di colore, salgono sul podio per la premiazione dei 200 metri, a piedi, scalzi e col pugno chiuso, inguantato di nero, in segno di protesta contro il razzismo. Olympic Victory Ceremony, 200 meters, men. Medals will be presented by the Marquis of Exeter, Doyon, member of the International Olympic Committee. E il 4 aprile di questo 1968 viene ucciso a Memphis Martin Luther King. Martin Luther King, il negro americano capo del movimento della non violenza in America, premio Nobel per la pace, è stato ucciso. Un fanatico, che la polizia sta ricercando ora, gli ha sparato da una finestra. Ieri sera alle 18, 2 di notte ora italiana, King si era affacciato al balcone. Ma nello sport una buona notizia c'è per l'Italia. Finalmente. Replica disordinatamente, limpidamente in questo istante. Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti. Nino Benvenuti ha disputato. A New York il grande Nino Benvenuti batte Emile Griffith e torna campione mondiale dei pesi medi di pugilato franco. Ma ci sono, non lo so, dischi particolari, canzoni particolari, non lo so, hai una chicca per questo 68? Ho un mega mix curato da Alessandro Chiappini. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. Oh, yeah. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty wind. Come on without, come on. Delilah, Tom Jones, Give Me a Little Sign, Brenton Wood e Mighty Queen dei Manfred Mann. Manfred Mann, ma tutti stranieri, Franco? Qualcuno dei nostri nel 68 che cosa facevano? Beh, qualche lacrimuccia. Eccoci, Maurizio, con 5 minuti e Piccola Katie dei Pooh, che quest'anno festeggiano 50 anni di attività e di grandi successi. Evviva, auguri ai Pooh. Auguri ai Pooh. Auguri ai Pooh. Ma nel 68 al cinema esce un grandissimo film. C'era una volta il West, con Claudia Cardinale, Henry Fonda e Charles Bronson. E la colonna sonora, la senti? La senti sottofondo? Ennio. È del grandissimo Ennio Morricone. Nelle sale C'era una volta il West di Sergio Leone, la versione originale era lunga 165 minuti, quando il film uscì il 21 dicembre del 68, appunto. Questa versione venne proiettata nelle sale cinematografiche europee e fu comunque un successo di botteghino. Ma il 1968, Franco, è l'anno di una grandissima, grandissima, forse la più grande o comunque quella che io amo di più, una grandissima attrice italiana. Come facesti donna, Vincenzo, e tu mio sei per tutta la vita. Hai capito? Il primo e l'unico rimani. O mio o di nessun'altra. Chiaro. Chiaro, Franco. Chiaro, chiaro. Monica Vitti, la ragazza con la pistola di Mario Monicelli. Quant'era bella Monica Vitti. Era veramente splendida. E poi aveva tutti i registri. Comunque fu in questo film che segnò la svolta nella carriera della Vitti. Fino ad allora, infatti, era stata impegnata solo in ruoli drammatici, ma Monicelli, che ne aveva intuito le capacità comiche, come già aveva fatto 10 anni prima con Vittorio Gassman, la lancia come attrice brillante e ironica, tanto da farla diventare in seguito una delle colonne della commedia all'italiana. Ma adesso, Franco, siamo arrivati all'estate e mi viene voglia di ballare, di cantare. Vabbè, ho capito. Vabbè, ti faccio ballare. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Non sono inglesi, non sono americani, sono australiani. Finalmente sono arrivati i Bee Gees. Questi sono due grandi successi del 1968. Grandissimi, mi hai fatto ballare un lento, però un mi lento. Hai portato i Bee Gees, quindi non posso protestare. Quindi Ward e Massachusetts ti hanno incontrato e la tua approvazione. Il mio Alessandra. Consenso. Il tuo consenso. Comunque il 20 ottobre del 68 Jackie Kennedy, vedova del presidente John, si presenta alle nozze con Aristotele Onassis con un abito bianco di pizzo firmato Valentino ed è il boom dell'azienda italiana. Tutte le donne del mondo vogliono quell'abito. Quelle che se le possono permettere, che non sono tutte le donne nel mondo, fanno richiesta e il giorno dopo arrivano 60 richieste di quello stesso vestito. L'azienda era nata nel 57 e la prima sfilata di Valentino è del 62. Insomma, gli anni 60 sono anche quelli della nascita e del boom del grande marchio della moda italiana. Ma è anche l'anno in cui arrivano queste due meravigliose canzoni. Insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli affida una lacrima al vento di Adamo. E anche oggi, Franco, siamo arrivati alla fine di questo 1968 e anche oggi non puoi scegliere la canzone di chiusura perché ci ho provato. No, però. Dai, lascia perdere. Però guarda, per una volta sono d'accordo con Antonella Migliaccio. Sei d'accordo? Assolutamente. Tu devi essere sì. sempre d'accordo con Antonella Migliaccio per un motivo semplice: perché? Una donna, un mito. Wow. Wow. Oh. Ciao a tutti da Alessandra Fiori da Franco Schipani. Ciao. Ci vediamo domani.